La nostra rappresentanza è una rappresentanza che cerca di far riflettere il decisore politico nel mettere al centro di tutti i provvedimenti quella che è l'impresa più largamente diffusa nel Paese, che vale per oltre il 98% delle imprese che sono sotto 20 dipendenti, che vale quasi il 60% dell'occupazione. E quindi noi riteniamo che per agganciare la ripresa che non c'è, perché in Europa ormai da molto tempo è ripartita l'economia, ma il nostro paese fa fatica ad agganciarla, perché non rimuove quelli che sono gli ostacoli da sempre alla crescita. Noi abbiamo individuato questi 7 temi. Al primo posto ci sta il tema delle semplificazioni, che è usata da alcuni anni come bandiera, ma che di fatto non arriva mai ad avere una ricaduta diretta sia nella vita delle imprese che in quella dei cittadini. E quindi, al di là di alcuni slogan sentiti in questi anni o di alcune azioni folcloristiche che hanno visto ministri bruciare con il lanciafiamme degli scatoloni vuoti, le imprese italiane chiedono, soprattutto quelle di piccole dimensioni, una vera lotta alla burocrazia che costa alle imprese italiane più di 20 miliardi all'anno, il che vuol dire un punto di PIL. Anche un punto e mezzo. Un altro punto qualificante è finalmente la ripresa di una stagione di liberalizzazioni, che purtroppo in questo paese si è fermata troppo presto, quando è andata a toccare interessi importanti. Noi abbiamo un paese ingessato, dove vi sono delle rendite di posizioni fuori del tempo, a cominciare dai servizi pubblici locali, per finire ai trasporti, all'erogazione del gas, alla distribuzione dell'acqua, ai servizi bancari e assicurativi, che hanno bisogno di vere liberalizzazioni. Un altro tema molto importante è quello del fisco. Il ministro Tremonti ha iniziato nel mese di ottobre, convocando tutte le parti sociali, un percorso che si dovrebbe completare, noi ci auguriamo tra non molto, in una vera e propria rivoluzione copernicana, come ha detto lui, e cioè una nuova fiscalità in questo paese. Le linee guida sono dal complicato al semplice. Noi vorremmo un fisco più leggero, vorremmo un fisco meno burocratico, vorremmo soprattutto un rapporto tra contribuente e fisco basato sulla trasparenza.